Grazie pastore, grazie ragazzi. A dire il vero, ho chiesto ai ragazzi di rimanere qui su stasera perché ci daranno una mano subito a mettere in pratica questo salmo. Vi va? Ah, benissimo, una persona, che il Signore ti benedica, grazie per questo incoraggiamento. Lo faremo noi due, d'accordo? Amen, grazie. Avete festeggiato il giorno del ringraziamento questa settimana? Posso vedere chi ha celebrato il giorno del ringraziamento questa settimana? No, nel senso la festa, poche mani vanno su, alcune sono confuse, vanno su lo stesso. Allora, il giorno del ringraziamento è il giorno dove si ringrazia ed è prettamente una festa americana, degli Stati Uniti. E abbiamo importato di tutto, veramente, dall'estero di feste, belle o brutte, e secondo me dovremmo importare questa, perché è bellissima. A me, quando ho vissuto negli Stati Uniti, era la mia preferita, perché era la più semplice poi alla fine. Si stava in casa, si stava in famiglia, si mangiava, si ringraziava l'un l'altro, si ringraziava il Signore. Era meravigliosa, è meravigliosa. Questa settimana l'abbiamo festeggiata con il gruppo di I68, sapete, mia moglie è americana, quindi va festeggiato insieme con qualcuno, ed è stato bello, bello, bello. Poi non vi nascondo che, oltre ad essere semplice, era la più economica. Eh sì, era molto importante per me. Ricordate, 20 anni fa io ero uno studente squattrinato, perdutamente innamorato di questa donna bionda meravigliosa. Però, non avendo soldi, il Natale si rendeva complicato, no? Il San Valentino anche. Il giorno del ringraziamento era il migliore, era il più bello, no? Perché non c'era solo di dire grazie perché esisti, ti amo, sei bellissima. Per questo mi piace assai il giorno del ringraziamento, è bellissimo. Però per un'altra ragione mi piace il ringraziamento, perché io sono convinto che c'è potenza nel ringraziamento. Io sono convinto che il Signore l'ha istituito nella nostra vita per portare grazia e potenza nelle nostre vite. Sentite questo versetto, che cosa dice in 1 Tessalonicesi: siate sempre gioiosi, dai, ditelo con me, non cessate mai di pregare, in ogni cosa, bravissimi, in ogni cosa rendete grazie. Sentite cosa dice adesso: perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non c'è niente di meglio che sprigiona la potenza di Dio se non il ringraziamento, cioè a riconoscere chi Lui è. E io sono una frana a ringraziare. Sapete perché? Perché dico sempre: vabbè, sotto in te lo sa, sai, è un'altra persona, no, non c'è bisogno di ringraziare, lo sa. Non voglio imbarazzarlo a lui, mo, mica a me, a lui. Non voglio imbarazzarlo, dai, non sarebbe carino. Troppo spesso invece poi lo trasferisco anche al Signore. Sapete cosa faccio? Nella necessità, nel bisogno, quando sono disperato, no? Signore, ho bisogno di te. Signore, liberami, vieni. Apri la strada, trova tu la soluzione, perché sono disperato. Sono disperato. E il Signore interviene, perché Lui è buono e perché la sua bontà dura in eterno. Lui interviene, agisce, e poi io cosa faccio? Grazie Signore, sei un grande, anche se comunque poi non era poi così grave, me la sarei potuta cavare, però Signore, grazie che sei intervenuto, no? Sminuisco poi quello che Lui ha fatto. C'avevo il dolore al ginocchio, non riuscivo a fare nulla. Signore, guariscimi. Il Signore mi guarisce, poi magari lo confesso a un'altra persona: il Signore mi ha guarito, anche se poi non era così male, dai, era un dolorino sopportabile. Quindi sì, sia lodato il Signore, lo ringrazio, però andava bene. Non è troppo vero, lo so, io sono teatrale, esagero un pochino, ma non è vero nelle nostre vite. Tendiamo a esaltare quando abbiamo bisogno di Lui, a disperarci quando abbiamo, e invece quando poi interviene sminuiamo. Questo non deve essere nelle nostre vite. Amen. Che possiamo glorificare Dio, rendere Dio grande nelle nostre difficoltà, perché Lui è glorioso e potente da intervenire. Non c'è nulla escluso alla sua potenza. E allo stesso modo dobbiamo ringraziarlo, lodarlo, adorarlo. Perché? Perché Lui ha bisogno di essere ringraziato, perché Lui ha bisogno di ringraziamento. No. Il Signore sa chi è, sa la sua potenza, sa quello che fa. Sono io che ho bisogno di ricordare chi Lui è, quello che Lui fa e quello che Lui può. Per questo sono chiamato a ringraziarlo, questa è la sua volontà per la mia vita. Amen. Per questo insieme vogliamo ringraziare questa. Vi va di ringraziare questa sera? Ecco, qualcuno si è aggiunto. E il Salmo 117 ci aiuta a farlo come pochi altri. Quindi ve lo leggo, è un salmo meraviglioso, un po' lunghetto, però è una poesia. Vi ricordo, no? I salmi sono le preghiere, se erano canti, erano poesie che ispirano i nostri sentimenti a chi è Dio e a come noi dobbiamo rispondere a Lui. E il Salmo 107 è una poesia per eccellenza, sentitela. Dal verso 1: rendete grazie al Signore. Ripetete con me: rendete grazie al Signore, perché è buono, perché è buono, perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Lo dicano quelli che il Signore ha riscattato, che ha riscattato dalla mano dell'oppressore e ha radunato da terre diverse, dall'Oriente, dall'Occidente, dal settentrione e dal Mezzogiorno. Alcuni vagavano nel deserto su strade perdute, senza trovare una città in cui abitare. Erano affamati e assetati, veniva meno la loro vita. Nell'angustia questi gridarono al Signore ed Egli li liberò dalle loro angosce. Li guidò per una strada sicura perché andassero verso una città in cui abitare. Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini, perché ha saziato un animo assetato, un animo affamato, ha ricolmato di bene. Altri abitavano nelle tenebre e nell'ombra di morte, prigionieri della miseria dei ferri, perché si erano ribellati alle parole di Dio e avevano disprezzato il progetto dell'Altissimo. Egli umiliò il loro cuore con fatiche, cadevano e nessuno li aiutava. Nell'angustia gridarono al Signore ed Egli li salvò dalle loro angosce, li fece uscire dalle tenebre, dall'ombra di morte, spezzò le loro catene. Ringrazino il Signore per il suo amore, questi redenti, per le sue meraviglie a favore degli uomini, perché ha infranto le porte di bronzo e ha spezzato le sbarre di ferro. Altri, stolti per la loro condotta ribelle, soffrivano per le loro colpe, rifiutavano ogni sorta di cibo e già toccavano le soglie della morte. Nell'angustia anche loro gridarono al Signore ed Egli li salvò dalle loro angosce, mandò la sua parola, li fece guarire e li salvò dalla fossa. Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini, offrano a Lui sacrifici di ringraziamento, narrino le sue opere con canti di gioia. Altri che scendevano in mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque, videro le opere del Signore e le sue meraviglie nel mare profondo. Egli parlò e scatenò un vento burrascoso e fece alzare le onde, salivano fino al cielo e scendevano negli abissi. Si sentivano venir meno nel pericolo, ondeggiavano, barcollavano come ubriachi. Tutta la loro abilità era svanita. Nell'angustia gridarono al Signore ed Egli li fece uscire dalle loro angosce. La tempesta fu ridotta al silenzio. Tacquero le onde del mare al vedere la bonaccia e si gioirono ed Egli li condusse al porto sospirato. Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini. Lo esaltino nell'assemblea del popolo, lo lodino nell'adunanza degli anziani. Amen. Non è meraviglioso questo salmo? Guardate, nei primi 3 versetti già ci dà tutto lo scopo del salmo. Dobbiamo fare una cosa, quindi il salmo ha uno scopo, poi c'è un motivo e chi deve far questo. Lo scopo qual è? Lo scopo è ringraziare, no? Inizia così: rendete grazie al Signore. Questo è lo scopo del salmo. Rendete grazie al Signore. Il motivo, perché? Perché Lui è buono. Perché Lui è buono e la sua bontà dura per sempre. La sua bontà è eterna, il suo amore è eterno. Questo significa che non ha limiti temporali, non ha limiti di capacità, non c'è limite di situazione dove il suo amore non può raggiungerti e non può trasformarti. Il suo amore è per sempre. Quindi lo scopo è ringraziarlo. Il motivo è perché Lui è buono e il suo amore dura per sempre. E chi lo deve fare? Chi lo deve fare? Sono i redenti. E chi sono questi redenti? Ora, nel Salmo, leggendolo, alcune parole ci indicano chi sono questi redenti. No, secondo me sono almeno due. Uno, il popolo di Israele liberato dall'Egitto. Vi ricordate? Questi sono i riscattati, liberati dall'oppressore. E l'oppressore per eccellenza lì era il faraone. E la conosciamo tutti la storia. Abbiamo visto il film e pure il cartone. Il Signore ha redento il suo popolo dalla mano del faraone. E sicuramente il Salmo chiama anche noi, a millenni di distanza, a ringraziare il Signore perché Lui è buono, la sua bontà dura in eterno. Lui ha liberato il suo popolo dalle mani del faraone. Puoi dire questa sera: Signore, ti ringrazio perché sei un Dio meraviglioso. Quelle non sono favole, quella era la tua mano potente ad opera per il tuo popolo. Io ti ringrazio, io ti ringrazio. La seconda liberazione che viene a mente molto chiaramente, i secondi riscattati sono gli esiliati. Vi ricordate? Il popolo di Israele aveva tradito Dio e ha inviato l'impero babilonese a distruggere il regno praticamente. Hanno prima occupato Gerusalemme, poi l'hanno distrutta e hanno deportato tutti gli israeliti come schiavi nell'impero babilonese. E queste persone hanno gridato al Signore. Hanno gridato, forse per anni e anni e anni e decenni, hanno gridato al Signore: liberaci. E indovinate un po' il Signore che ha fatto? Il Signore li ha liberati. Anche se hanno disubbidito, perché il Signore è grande in amore. Lui è un Dio di grazia. Anche se non se lo meritavano, il Signore ha redento queste persone e li ha riportate a casa, li ha riportati a Gerusalemme, li ha riportati in Israele, li ha restaurati e riscattati. Non è il nostro Dio meraviglioso? Non è il tuo Dio meraviglioso? Centinaia di anni fa ha riscattato un popolo riportandolo a casa. Puoi dire: questo è il mio Dio, io lo ringrazio, Lui è potente. Guardate, però il Signore non redime, non riscatta solo popoli nel passato. Il Signore è lo stesso, ieri, oggi, in eterno. E non lo fa solo con popoli, ma lo fa con individui. Se tu questa sera credi che Gesù è vivo, che Gesù è vivo nel tuo cuore, se tu lo conosci come tuo personale amico e Signore, e non come una cosa religiosa e distante, io sono qui per dirti che sei un riscattato, sei un redento. Sei un salvato. E questo forse lo sai, perché sei qui da una vita. O forse stai facendo i primi passi e stai cercando ancora di capirlo. Sono qui per ricordartelo per l'ennesima volta. O forse per le prime volte sono qui a dirti: sei un riscattato. Perché su di te c'era una condanna e una colpa. Su di me c'era una condanna ed una colpa. Ed era giusta, era meritata. Perché il peccato che io ho commesso era degno di morte e di morte eterna. Ma Cristo Gesù che cosa ha fatto? Ha preso quella colpa, ha preso quella condanna e l'ha rimessa su di sé, l'ha presa su di sé, e quella condanna, quella morte, quel peccato l'ha distrutto, l'ha annientato, l'ha fatto morire di morte di croce. Ma non è finita lì, non è finita lì, perché il terzo giorno Lui è risorto. Ha messo a morte la morte. Per questo io e tu siamo riscattati. Per questo, perché Lui è risorto, io posso risorgere. Per questo tu sei redento, perché la morte non ha più potenza su di te. perché Lui ha sconfitto una volta per sempre. Questo è il nostro riscatto. Tu sei un riscattato, io sono un riscattato, se questa sera noi crediamo in Cristo Gesù come Salvatore. Possiamo ringraziarlo, possiamo ringraziare il nostro Dio, possiamo dire Signore, Tu sei buono, Tu sei buono, Tu sei buono, la Tua bontà dura in eterno. Lo dico con altre parole: Dio ha vivificato anche voi. E non sono mie parole, sono della Sua parola. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Eravamo per natura figli di ira, come gli altri. Ma Dio che è ricco in misericordia e grande in amore, con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della Sua grazia, mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Possiamo ringraziarlo, possiamo dire: Signore, grazie perché sono riscattato, grazie Signore perché la Tua bontà dura in eterno, grazie. Facciamo una cosa, ci alziamo in piedi. Alza le tue mani e ringrazialo perché sei riscattato. Ringrazia e adoralo perché Lui è buono e la Sua bontà dura in eterno. Ringrazia il Signore questa sera. Forza Chiesa, dalla prima all'ultima fila, con le tue parole. Alza la tua voce e dici: grazie, grazie, grazie Gesù perché io sono riscattato. Grazie Gesù. Amen, amen. Puoi ringraziarlo con tutto il tuo cuore e dal profondo del tuo cuore, perché Lui è buono, sei riscattato. Amen. Dì alla persona che ti ha a fianco: sono riscattato. E accomodati. Come se non bastasse questa motivazione, dovevi dire solo sei riscattato, ok. Come se non bastasse il fatto che siamo riscattati, come se non bastasse il fatto che solo queste verità dovrebbero far esplodere in noi ringraziamento e lode al Signore, il Salmo ci dà quattro motivazioni. Vediamole due alla volta. Quattro motivazioni pratiche perché Lui è degno di lode, è degno di essere ringraziato, è degno perché è buono. Il primo è perché in una circostanza difficile, in una calamità, questi hanno gridato, il Signore ha risposto, e per questo sono chiamati a ringraziare. I primi sono gli smarriti, coloro che sono persi. Dal verso 4 al verso 9 li descrive come persone che vagano nel deserto senza nessun rifugio, affamati, assetati, in fin di vita. Questi che non avevano una strada, questi che non avevano una meta, non sapevano dove andare. Ricordate il popolo di Israele nel deserto del Sinai. Queste persone hanno gridato al Signore e Lui ha risposto. C'è scritto: Lui li ha liberati dalle loro angosce. Ma di più, c'è scritto poi: li guidò per una strada sicura verso una città in cui abitare. Dio conduce i Suoi. Dio fa una strada dove non c'è una strada. Dio guida i Suoi, e quando gridano a Lui, Lui li riconduce a casa. Che cosa ha detto Gesù? Vi ricordate? In Giovanni 14 Gesù dice: io sono la via. Io sono la via. Nei tuoi dubbi, nelle tue incertezze, se sei di fronte a decisioni cruciali nella tua vita che potrebbero fare la differenza, se sei preso da questo peso e non sai che farne, io ti dico questa sera: Gesù è la via. Io ti dico questa sera: Lui farà una strada nel deserto, Lui ti guiderà, Lui è fedele. Quanti di noi, posso vedere le mani, quanti di noi possono dire: sì Gianluca, io ero in un deserto. anni fa io ero in un deserto, non sapevo dove andare e il Signore mi ha condotto. Guardate le mani che vi alzano. Glorifichiamo Dio perché Lui è buono e la sua bontà dura in eterno. Questa sera Gesù ti dice: io sono la via. Nei tuoi dubbi, nelle tue incertezze, nelle decisioni da prendere, dove ti manca sapienza, Gesù è la via. Gesù è la tua via. I primi erano sbarriti, i secondi, c'è scritto altri, erano prigionieri. Erano prigionieri, erano incatenati con ceppi di ferro nella loro prigione. E c'è scritto anche di loro che hanno gridato al Signore. Sentite cosa c'era scritto: cadevano e nessuno li rialzava. Immagina, chiudete un attimo gli occhi, un prigioniero incatenato che cerca di alzarsi e i ceppi lo tirano indietro, abbasso e alla morte. Vengono descritti come vivevano nelle tenebre dell'ombra della morte. Vivevano nelle tenebre dell'ombra della morte. Questi hanno gridato a Gesù, questi hanno gridato a Dio, e Dio che fa? Dio li ha liberati, Dio ha spezzato loro le catene, Dio ha spezzato le barre, Dio ha aperto la porta e ha fatto uscire da quella prigione, Dio ha portato la luce e ha tolto le tenebre. Che cosa ha detto Gesù? Che cosa ha detto Gesù? Sentite cosa dice in Giovanni 10. Io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Lui questa sera è la tua porta. Quali sono le tue prigioni? Quali sono le tue dipendenze che ti tengono incatenato? Quali sono le tue depressioni, le tue ansie, le tue paure? Qual è la tua prigione questa sera? Nel nome di Cristo Gesù dichiara: il Signore è la mia porta. Io posso uscire ed entrare in verdeggianti paschi. Io posso uscire da queste tenebre e vivere per sempre. Ricordate quello che Gesù ha detto. Lui non solo ha detto: io sono la porta. Gesù ha anche detto: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Non c'è valle dell'ombra della morte che tenga di fronte al nostro Signore. Lui è buono e Lui merita il nostro ringraziamento. Puoi dire stasera, questa sera, nella tua vita: il Signore mi ha liberato da una prigione. Posso vedere la tua mano? Il Signore mi ha liberato da una dipendenza. Il Signore mi ha liberato da una schiavitù, da una depressione, da un'ansia, da una paura. Vedete quante prigioni il Signore ha aperto. Vedete quanti ceppi ha spezzato. Vedete quante porte ha aperto. Ci alziamo in piedi, ringraziamo il Signore, alziamo le nostre mani e ringraziamolo. Diciamo: Signore, Tu sei degno, Tu sei il Dio. Sia glorificato il Tuo nome, perché Tu sei buono e la Tua bontà dura in eterno. Amen. Se questa sera sei qui e dici: Gianluca, io sono in una prigione, Gianluca, io ho una strada da percorrere, non so dove sto andando, sono confuso e smarrito, io dichiaro nella tua vita, nel nome di Cristo Gesù, che Lui è la via per te. E io dichiaro nella tua vita, nel nome di Cristo Gesù, che Lui è la luce. Fuori le tenebre nel nome di Cristo Gesù. Fuori le tenebre nel nome di Cristo Gesù in questo momento. Posso vedere la tua mano? Se stai vivendo una valle dell'ombra della morte, se stai vivendo uno stato di confusione, ti trovi in un deserto e non sai dove andare, alza la tua mano, vogliamo pregare per te. Vedete queste mani, fratelli e sorelle, li avviciniamoci, imponiamo le mani. Imponiamo le mani a queste persone e con fede confessiamo che Lui è la porta che fa uscire da queste prigioni e che Lui è la luce che spazza via ogni tenebre, che Lui è la via, la verità e la vita, che conduce alla vita. Padre, noi veniamo davanti a Te e preghiamo per queste persone, e Padre, noi confessiamo che tu, Signore, sei la porta che fa uscire da queste prigioni. Padre, noi dichiariamo fuori ogni tenebre nel nome di Cristo Gesù. Fuori ogni oscurità, fuori ogni depressione, fuori ogni ansia, fuori ogni preoccupazione, fuori ogni insicurezza nel nome di Cristo Gesù. Lui è la luce che conduce alla vita. La luce noi decidiamo di guardare. Nel nome di Cristo Gesù. Nel nome di Cristo Gesù. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Il tuo Dio è porta, il tuo Dio è luce, nel nome di Cristo Gesù. Ci possiamo accomodare. Stiamo facendo anche un po' di ginnastica questa sera, che non guasta mai, amen? Ah, pochi convinti pure qui, ok, benissimo. Altri, i terzi, erano malati. Qui c'è scritto, è descritto proprio come sofferenza fisica. E c'è scritto una cosa bellissima: Dio manda la sua parola e li fece guarire. Questi erano malati, stavano per morire, erano sulla soglia della morte. Gridano a Dio e Dio risponde. E Dio risponde come? Manda la sua parola e guarisce. Dio ha creato il mondo intero con la parola. Dio ha creato me e te con la sua parola. Dio disse e fu. Dio disse guarigione e guarigione fu anche in questa circostanza. Non è glorioso il nostro Dio? Gesù che cosa ha detto di questo? A dire il vero, Gesù è la parola. E la parola era presso Dio e la parola si è fatta carne e ha abitato fra di noi. E quando ha abitato fra di noi ha fatto una cosa. Ha fatto più cose, a dire il vero. Ma ha fatto una cosa, ha guarito. Ha guarito i ciechi, i zoppi, i lebbrosi, gli emorragici. Ha guarito chiunque avesse febbre, ha risuscitato i morti. Gesù ha guarito. Gesù è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. E Gesù continua a guarire. Gesù dice sulla tua malattia, guarigione. E guarigione fu nel nome di Cristo Gesù. Posso vedere le mani? Io ho tante mani. Di chi il Signore ha guarito nella propria vita, il proprio corpo? Guardate le mani, ci fa bene guardare le mani. Tenetele bene alte. È una testimonianza della sua fedeltà, della sua bontà, del suo amore eterno. Ci fa bene. E Signore, con queste mani noi ti ringraziamo perché tu guarisci. Amen. I quarti erano imminacciati. Guardate come vengono descritti, bellissimo. Erano marinai nel bel mezzo della tempesta. E questa tempesta aveva onde che li faceva salire fino al cielo e poi li schiantava negli abissi. Bellissima questa immagine. E guardate cosa c'è scritto. Guardate che cosa c'è scritto di loro, dei marinai. Tutta la loro, versetto 27, tutta la loro abilità era svanita, tutta la loro abilità non serviva a niente. Ha voglia questi a dire: io sono marinaio da 30 anni, ne ho di esperienza. O dire: io sono il capitano di questa barca da 40, ne ho viste di situazioni. Quando ci sono onde che ti portano in cielo e ti schiantano negli abissi, non c'è esperienza che tenga, non c'è capacità che possa aiutarti. Quante volte io mi sono trovato in situazioni dove ha voglia io a sforzarmi, ha voglia io a impiegare tutti i miei doni, tutti i miei studi, tutte le mie risorse, tutte le persone che conoscevo. Era una situazione più grande e non potevo nulla. Ho gridato al Signore e Lui ha portato pace nella tempesta. Chi può dirlo con me questa sera? Che cosa ha detto Gesù di questa cosa? Che cosa ha detto Gesù di questa cosa? Beh, a dire il vero, lo ha fatto. Vi ricordate? Era in barca con i discepoli e Lui dormiva tranquillo. Stavano per perire. I discepoli erano disperati, fratelli e sorelle, amici e amiche, erano così disperati da svegliarlo e gridare: non ti importa che stiamo crepando? Tu dormi? Per davvero tu dormi? E il Signore Gesù che cosa ha fatto? Dopo che ha detto uomini di poca fede, si è alzato in piedi e c'è scritto ha sgridato il vento e le onde e ha portato pace. E i discepoli hanno detto: ma questo chi è? Chi è questo che pure il vento e le onde lo ascoltano? Il mio Gesù, il tuo Gesù, sono qui a ricordarti, è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Lui è buono, il suo amore dura per sempre. Non c'è tempesta che tenga. Io posso testimoniarlo. Lui è buono, è stato buono nelle mie tempeste. Lui ha detto una parola e c'è stato silenzio. Una parola e c'è stata pace. Possiamo dirlo insieme questo? Possiamo dirlo insieme che il Signore ha guarito le nostre malattie e che Lui ha portato pace delle nostre tempeste? Chi può dirlo con me? Se puoi dirlo con me, alzati in piedi. Vogliamo farlo un'ultima volta, cantare con tutto noi stessi, con tutto noi stessi. Il Salmo 117 ci chiama a ringraziare il Signore. Sapete, la parola ringraziare, letteralmente dall'ebraico, significa alzare le mani in celebrazione, arresa e ringraziamento. Per questo noi incoraggiamo, per questo il pastore troppo spesso ci incoraggia ad alzare le mani. È un'adorazione, è un ringraziamento, è un riconoscimento che Lui è buono, buono, buono e la sua bontà dura in eterno. Alza la tua mano se hai da ringraziare, alza la tua mano se hai una malattia, alza la tua mano se c'è una tempesta, perché Lui è buono e la sua bontà dura per sempre. Lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno e può intervenire in questo momento come lo ha fatto per molti di noi che stanno alzando, Signore, a te queste mani in ringraziamento, in lode, in adorazione, perché tu sei buono. Signore, sii esaltato in questo luogo, perché è vero che tu sei buono e la tua bontà dura in eterno. Padre, grazie per tutte quelle volte che hai fatto una strada nelle nostre vite. Padre, grazie per tutte quelle volte che ci hai liberato dalle nostre prigioni, che ci hai guarito dalle nostre malattie e che hai calmato ogni tempesta. A te sia la gloria, a te sia l'onore. A te noi diamo tutto il nostro ringraziamento, perché tu sei buono, tu sei buono, tu sei buono, Signore. Alziamo le nostre mani, continuiamo ad adorare, continuiamo a lodare, continuiamo a ringraziare il nostro Dio, perché Lui è buono.